scatta, cioè lo pago così, è buono il prezzo, è buono, c'erano un quattro di differenza, 4-5 euro a litro. Già lo so. A me Maria non ne biglia mai, mi ti faccia la macchina. Poi il motore diesel è tremendo. Se no è proprio tutto a posto, guai. Ma nel diesel non lo puoi mettere, Sinti 2000. Eia, Sinti 2000 turbo diesel mettevo io. Cazzo no, cosa ti credi? Non c'è solo il Sinti 2000 per la macchina, a benzina no. C'è anche quello, turbo diesel, no, che è nero il coso. Ah ecco, no, io non lo conoscevo quello, vabbè, non ho mai... Sì, diesel l'ho avuto, ma... Ho sempre quello Fiat, nel 127 diesel, mettevo quello Fiat. Perché consigliano, il Selenia, consigliano sia nelle Alfa Romeo che nelle Fiat, e io gli mettevo il Sinti 2000 turbo diesel, gli mettevo. O metti il Selenia o il Sinti, uno dei due. No, c'è Mauso, chi sono motori, poi quelli Fiat sono spinti, se non li metti l'olio suo fai danno. Basta non spingerlo alla macchina, andare piano, e faccio io. Ma qua li metto sempre qui, io ho avuto sempre o Selenia o la Sinti 2000. Il Selenia lo mettevo nella corsa. 127 poi l'avevo cambiato, l'avevo messo 127 a benzina, poi l'avevo messo sempre Sinti 2000, andava che era la stessa macchina, c'aveva uno spunto, me lo ricorderò sempre, cazzo, lo spunto che aveva con 127, chissà che tu l'hai trovata quando io non c'ero più. Abbiamo capito. Signore, questa. Quella tua lo stesso, quella che hai adesso, penso che consiglino l'olio Selenia, o no? Sì, Selenia metto, perché ne ha avanzato un po', me l'hanno messo dentro la macchina, e me l'ho messo nel cofano per fare qualche da poco, perché un po' è avanzato e l'abbiamo lasciato. E te va bene anche. Anda bene. Guarda vera. Questa. E tu metti sempre Selenia lì. Oh, la... Oh, Cettina! Mi hai sentito, chiami? E chi? Gianni. Oh, ciao! Ciao, Conce. Tutto bene? Sì, tutto bene. Bene, la senti, cazzo, è lontanami da qui. Ah, la voce è tre volte più forte della tua. È penetrante. E te credo. Concetta, lo conosci tu a Natalino, quel cocco male Natalino, lo conosci? 10 anni fra un po'. Anzi, 10 anni che ci conosciamo. Ma e tu lo conosci a questo cocco male di Luca? E beh, Luca! Ehi, ragazzi, mi impatti che scusano in un telefono, no? Ma si ledi, dai, detto subito già. Sto chiedendo un telefono, è una cosa delicata, Ehi, chiudilo, E io racconto il telefono. Azzardo non c'è, Luca, perché gli devo dire una cosa. No, non lasciare che sta chiedendo un telefono. Non tocca se. No, Luca ha giusto il telefono, volevo sapere se c'era Antonio, che gli devo dire una cosa. Che Antonio, riserva. Ehi. Antonio, ci sei all'ascolto? No, non c'è. Sono al telefono, un attimo già. Ehi. Stazione 10, c'è qualcuno su questo canale? Hola? Andate il break. Ciao Claudio, ben sentito. Il canale era già occupato, buonasera, c'era Natalino, c'ero io, c'era Marco Condor che adesso è a cucinare. E Natalino al telefono, io sono rimasto qua. Dai. Vi saluto cordialmente a tutti e due, ciao Roberto, ciao Chiodaro Ginito, buonasera. Anch'io sono entrato in questo momento, insieme a te, pochi secondi prima ho fatto una chiamata, non ha risposto nessuno e poi ha risposto tu, dai. Ok, avevi sentito anche Gianni, dai, riprendi tu Claudio. Benissimo, perfetta la radio. Quindi sei pulito adesso. Ehi, adesso facciamo riprendere a Gianni e poi mi dirai se è un veicolare o se è un stazione bar. Questo a me mi sta arrivando Santiago di poco più di 5, un po' più di 5, appena tipi. Se non arrivi ma qua sì, dai. Però la radio è bella, chiara, presente, sembri tu di persona. No, io ti ascolto perfettamente, superi il 9-10, l'importante è se 9-10, con i picchi arrivi qualcosina di più, la radio è chiarissima, l'unica cosa secondo me è messo i controlli leggermente esaltati in acuti, perché quando fai la S fa un pochettino di acuti esaltati, comunque è chiarissima la radio. Però nei paesi ce l'hanno, Roberto. È una nuorese però già. Aspetta, scusa, no, abbiamo fatto la battuta, già ne ho detto, nei paesi ce l'hanno la S, ma nella zona di Sassari no, più nel nuorese, dai, si sente un po' di più la S, no, ma qua è un problema di regolazione e basta. Spiegami un po' come è regolato il volume del microfono. Solo uno ce l'ha il mic gain. Aspetta che non ho visto, aspetta un attimo. Ma non è valvolare, è trasferizzato. Ehi, a prova a alzare un po' il volume. No, non è il tono, è il volume del microfono, il guadagno, il mic gain. Ma molto meglio, prova a sollevare ancora e ti dico quanto puoi sollevare. Registrato, una bomba, sì. Fammi vedere i tuni adesso, come li ha messi i tuni? Allora, prova a metterli a metà e mi fai il passaggio. A metà e poi li metti a zero, per vedere. Scusa un attimino che ha fatto il break. Chiudi tutto adesso, mettili a zero. No, a zero non va bene, rimettili a tre. C'è una bella amplificazione, un leggero riverbero, si sente, ma è ottima radio. Chi è che ha chiesto di entrare? Avanti il break. Ok, ciao Roberto, salutami a tutti, Alfa 21. Ciao Sergio, ben sentito, anche tu stai andando alla grande. L'alimentatore nuovo è questo? No, adesso io ho attaccato un altro apparato e l'alimentazione comunque era un po' sfasata, adesso la sto tenendo sotto controllo col tester. Mi raccomando, state attenti che bruciate l'apparato. Io ho sempre il multimetro digitale, oltre a quello del coso dell'alimentatore, per qualunque sicurezza è sempre bene averlo, non si sbaglia mai. Se c'è la possibilità di metterti un multimetro digitale, mettitelo. Ti ascolto perfettamente, radio molto forte e chiara. Che cosa stai utilizzando, Sergio, scusa? Io sono appassionato di questo modello, uso sempre l'SBE più il tuner più 3, credo che vada bene, dai. Alla grande, stai andando benissimo, molto forte. Ti rilancio a Gianni doppio room e poi c'è Claudio da Muro. Avanti Gianni. Ciao Sergio, buonasera, dai. Qua sta arrivando benissimo, dai, va molto bene questa palizza. Tranquillo. E Riccardino, cosa sta facendo? I cubi? No, fuori con la mamma, oggi è andato a tagliarsi i capelli, che sembrava un cespuglio con le gambe. Kappa, va bene, dai. E perché era strano che non l'ho sentito, ho detto, boh, acceso, devo comprare, solitamente entra. Dove si sta facendo i compiti oppure sta facendo qualche altra cosa col padre, perché sapevo che stavate facendo dei lavoriti. Break. Avanti break. Sono rientrato, Natalino Alfa 1 qua da questa parte, ero al telefono. Ciao Natalino, ben sentito, c'è anche Sergio e Claudio D'Amuro. Facciamo rientrare a Claudio D'Amuro se vediamo un attimino quella regolazione. Avanti col mic. Una bomba, sei eccellente, molto forte la radio, magari appena di quegli acuti, però probabilmente è un problema di microfono, non è stato mai toccato quel microfono. Sempre bene, fai una prova, l'ultima prova per tagliare la testa al toro, metti i tuni completamente al massimo e poi prova a parlare. No, torna come di prima, mettili a tre i tuni e fammi vedere il livello microfonico se è cambiato. Perfetto, questa è la regolazione ottimale, non toccare niente che va benissimo, almeno su quel tipo di microfono, poi ci possono fare delle modifiche magari togliendo quella cosa dall'interno, mettendo l'ovatta, togliendo quella lamella protettiva dietro, con lo schermo, ma per il momento va benissimo, non ti ho mai ascoltato così bene, ti ripeto, ottima modulazione, che lo conferma Natalino, che sono un po' più lontani di me, magari loro in lontananza riescono a valutarti diversamente. Avanti Natalino. Con chi stavi parlando? Io non sentivo nessuno. Addirittura non lo senti, qua è più di 9-10. Con Claudio D'Amuro, vediamo se Sergio ti ascolta. Avanti Sergio. Sì, ti ascolto, anche se la mia posizione diciamo è forse opposta alla sua, per cui Santiago non lo valuto neanche, perché mi arriva un Santiago di 6, però la radio è forte, quindi sicuramente sta uscendo bene, sta arrivando forte, perché lo sento molto, ma molto meglio rispetto a altre volte. L'ultima osservazione, stai tenendo sempre la stessa distanza, la stessa direzione rispetto al microfono, perché quel microfono è molto direttivo, se ti sposti di qualche grado, di 10 gradi, attenui parecchio. Tieni sempre la stessa distanza e non cambiare. E a che distanza sei dal microfono? 3 cm, come 3 cm? Un palmo, un braccio, cacchio, 3 cm sei attaccato alla bocca. Ok, alza appena appena il mic gain allora. Io ho l'arrugginito, io come ti arrivo di segnale così normale? No, ti ascolto sempre bene. Come mai l'ascoltate più basso? Sì, l'altro giorno l'ascoltavate più forte, stranamente io oggi, considerando che non è aiutato, sta arrivando a bomba. Sì, sta arrivando bene, ma poi lo sai, dipende dallo smitter a seconda dell'apparato che metti, quindi il segnale è un po' relativo. Più che altro valuto la radio, che è abbastanza chiara, forte, comprensibile rispetto ad altre volte, quindi presumo che anche il segnale poi sia anche aumentato. Io sono in una condizione sfavorevole rispetto a lui, perché facciamo dalla sua posizione alla mia, facciamo una specie di semicerchio di 180 gradi, quindi sono proprio un altro po', altri 180 gradi e faccio il giro dall'altra parte arrivando da Campomela. Ok, ma tu stai usando il microfono da palmo o da tavolo? Sì. No, sto usando il Turner più 3 da tavolo. Un peluzzino lo dovresti abbassare tu, se tieni la distanza come sei adesso, leggermente poco dovresti abbassare. Adesso l'ho abbassato, vediamo un po', dai. Così va benissimo, se tieni questa distanza e questo tono di voce è perfetta, perché stavi già iniziando a saturare leggermente. Ok, Gianni, doppio room, fai girare che passerà il mic a Natalino. Gianni, ci sei? Natale, facci sognare. Io cosa ti faccio sognare? Gianni si sarà spostato, E anche tu finalmente Natalino stai uscendo come Dio comanda, ok. Radio una bomba, spettacolare, la radio forte e chiara, segnale ottimo, considerando che stai uscendo pulito, senza nessun aiuto, stai andando alla grande. Come mi ascolti a me di segnale di lì con quell'apparato, per curiosità, già lo so che arrivo forte. Modesto. No, perché siamo vicini, non è che se muore ci mancherebbe. Claudio, ok, va bene. C'è sempre un po' di questa S un po' pronunciata, comunque va bene, dai. Si può modificare leggermente di mettendo un po' di ovatta e togliendo quella lamella interna dell'MB più 5, c'è una piastrina circolare in metallo, togli quella lì e li metti l'ovatta e li riavvicini un pochettino la capsula verso la, dove parli, diciamo, dall'uscita del microfono, li avvicini un pochettino la capsula, li metti un po' di ovatta in modo che te la vedi che gli acuti un po' te li attenua, quel fischietto quando fa le F fa sci. Ma esce bene così, Robè, a chi vi ruba il ducato, lascialo stare così, che già va bene. Oia, adesso con questo apparecchio, come ti sta arrivando, che ho l'arrugginito, dammi un controllo di segnale di radio, che questo è un altro apparecchio. KK, vabbè, un segnale in meno da questo qua, vabbè. E questo qua però sta uscendo con 4 watt. Ma hai controllato bene lo smitter, controlla bene come sta uscendo, dai. Che mi sembra strano così basso, anche se c'ho 4 watt. Adesso è aumentato, non dire le bugie. Gianni, guarda WhatsApp. Già l'avete detto pochi che non si può fare una battuta. Guarda a vedere come attaccato, come ti arrivo, che ho l'arrugginito. Già va bene. Ok, c'è Sergio in parcheggio, ho sentito a Riccardino poco fa, stava rientrando, mi ha detto, gli ho mandato un messaggio, Sergio dice che è quasi arrivato, dai, un quarto d'ora, 20 minuti arriverà, perché gli ho chiesto se aveva provato il coso, l'alimentatore, e lui voleva rimettere lo ZG e fare i confronti, ho detto no, lascia quello di Fabrizio, così siamo sicuri che funziona. No, ma adesso lo attacco e così lo proviamo un attimino, perché ho controllato e stava modulando. Stavo usando l'alimentatore che era starato. No, lo so, però l'altra volta ho detto non era possibile, quei problemi lì sono disturbi troppo, cioè dei problemi mai sentiti, diciamo, molto strani. Poi vedevo quell'assorbimento con l'alimentatore, con quella potenza, e non esiste che un alimentatore segni con l'assorbimento, è fuori luogo, considerando la potenza, la legge di Ohm è sempre quella, non c'è da sbagliare. Ok, ti ascolto comunque molto bene, con la radio mi piace come modulazione. Cosa volevo dire, altro non ce n'è. Avanti a te di nuovo Sergio e poi scusa, una domanda, il gruppo l'hai messo di continuità, l'hai provato per vedere se stabilizzi anche la tensione di re? No, non l'ho provato perché sono anch'io appena rientrato a casa e quindi ho attaccato il tutto per vedere un pochettino come era tarato l'alimentatore. Adesso poi attacco di nuovo l'altro apparato, che sicuramente è più sensibile, quindi ne risente anche dei piccoli sbalzi di tensione, per quello che gli ha fatto quello scherzo lì, e quindi adesso vediamo un pochettino di regolare il tutto. Va bene, dai, faccio girare a Claudio e poi ci risentiamo. Guarda, la parte mia è bellissima, la radio molto forte, ti posso dire, è così forte, è chiaro, non ti ho mai sentito, cioè magari è forte di radio sì, però molta distorsione, questa è molto chiara, poca distorsione, la radio va più che bene, niente da dire, il segnale è ottimo, per cui non c'è bisogno neanche di attaccare niente, almeno la parte mia sta andando alla grande, sembra un segnale qua locale, vicino di città. Vediamo se nel frattempo vuole entrare qualcuno su canale 10, avanti canale 10 in compagnia di Roberto, Claudio Lamuro, Natalino, Sergio e Gianni Doppio Rum, avanti che vuole entrare. Nulla, riprendi tu Natalino. E cosa riprendo? Cosa riprendo? Rimango in ascolto, dai. Avete visto quel video oggi su internet? No, l'avete visto già? Che cosa, Roberto? Chissà chi è che ha fatto la soffiata vicino al muro di una casa. Sono andati con l'escavatore e la guardia di finanza, hanno trovato un coso, un sacco grosso con 1 milione di euro dentro, nascosto. Ma sasso? No, fuori in cosa, forse in Calabria, quelle zone lì. Ma cacca, ti rendi conto? 1 milione di euro sotterrati, con l'escavatore sono andati. Chissà chi ha fatto la soffiata. E invece sono andati a colpo sicuro, qualcuno l'avrà detto sicuramente. Ma cacchio, uno a nascondere i soldi fuori dalla strada, cioè fuori da un muro di cinta, anche abbastanza profondo, a 1 metro di profondità era, e li ha sotterrati, questi sacconi grossi erano, 2 sacconi grandi. E l'aveva fatto per non dare nell'occhio, perché se cercano dentro dove c'era lo scasso della casa non li trovano, capito? L'avrà fatto proprio per quello, per evitare di farli trovare. Cacchio, strano. Non lo so, io dico, il tipo, a meno che non ne abbia tanti di soldi, ti scende un colpo quando ti dicono mica ti ne ha giubilato 1 milione di euro. 1 miliardo e passa delle vecchie lire, 1.927 milioni delle vecchie lire. E invece sotterrare a chi non ha dati a me. E infatti aggiungete un po' cupolomino e non sbagliamo. Vai Sergio di nuovo. 1 milione di euro sono 2 miliardi, caro lì. Ho detto 1.927 milioni di vecchie lire. No, sono 2 miliardi di lire. 1 milione di euro. Perché un euro sono quasi 2.000 lire. Diciamo tu stai arrotondando per eccesso, comunque l'euro era 1.927,32, per cui se facciamo i conti esatti è 1.927.320.000 lire. Senti Roberto, dimmi se... scusami, avevo impostato male la frequenza, mi senti? Sì. Ok, niente, poco fa mi hai rilanciato ma sono saltato da un'altra parte. Ma questo è un altro baracchino. No, questo è il capa. Lo sento strano, come mai? Non so cosa dirti, però sono su questa frequenza del canale 10, ma di radio? No, ti sento basso di segnale prima di tutto, e poi la radio la sento, ma che microfono c'è a me? Un po' gracchiante la radio ce l'hai. Aspetta, ma lei devo regolare bene qua il mic, il car, è sempre il più 2. Il più 2? Ma hai toccato qualcosa? Ti sento strana la voce. Mica deve essere 075.00. Sì, già sono centrato su quella frequenza, ma magari le altre regolazioni forse sto sbagliando. Prova un po' adesso. Ma sei molto vicino al microfono, ti sento prima di tutto basso di segnale. Ma che strano, non lo so. Addirittura adesso ti sei abbassato ancora di più, adesso sei 9 più 10, c'è il segnale di coso di Claudio Lamuros, col capo arriva oltre 9,20. 9 qua sta arrivando. Che siamo vicini, 9,10 con i picchi vai a quasi a 9,15, però strano, quando appena con l'altro capo arrivavi a 9,35 con quello che tirava potenza, ma mi sembra strano che hai toccato il carrier della potenza. Lo sto regolando perché mi ricordo che andava tenuto a 4 per non andare oltre, ma se lo aumento cosa succede? Adesso ti sei aumentato un pochettino, adesso sei a 9 più 20. Magari sta dando più potenza, adesso ho regolato così. Sì. A basso di potenza, io adesso sta chiarificando anche la radio. Prova a parlare, sì. Guarda un po' adesso se va meglio. Sì, va molto meglio, se hai il segnale, 9 più 20. Sì, adesso la radio è chiara, va benissimo. Perché forse l'avevo regolato male, vai, forse sotto quell'aspetto è più pratico Riccardo di me. Gli arriverà lui adesso tra poco. È lui il maestro di quell'apparato, ormai è diventato... dobbiamo imparare la luce. Quando scalda ci rimetti a posto. Che avanti. Ciao Roberto, buonasera a tutti, Franco da Sos. Quando scalda il tappa, quello lì, si mette a posto da solo. Puoi mettere anche le uova dopo, a friggere. E il K, Gianni, tu già ce l'hai avuto già. Ma non è il 140 quello lì, è il 430. Ah, il 430, dovrebbe essere la stessa cosa, dai. No, no, non è lo stesso. Non penso che sia lo stesso perlomeno. Già è lo stesso, quindi devono scaldare, solo il 4.40 era pronto quando lo accendevo io, andava bene. Ma il tuo era a carburo, Natale? Il mio era un signor 4.40, signor. Tu ci avevi il riscaldamento a carburo, tu l'hai conosciuto il carburo per fare l'ossigeno, l'anno l'ossigeno, l'acetilene a cannella. Io le facevo saltare col carburo i barattoli. Non lo so, si faceva anche noi ai tempi miei da ragazzino, ci mettevi l'acqua, chiudevi, boom, un'esplosione. Non so se merendo o se faccio colazione. Eia, ok, vediamo un po' di fare un riepilogo, facciamo rientrare a Claudio da Muros. Avanti Claudio, allora, facciamo riprendere a Franco se ti ha ascoltato. Franco, hai ascoltato a Claudio da Muros? Ah, l'ho ascoltato, sì, ciao Claudio, ben ascoltato, dai, però io vi ascolto, ma sto facendo cose e sto soldando della roba, magari ci sentiamo dopo. Sì, Sergio, quello lì, e man mano che scalda si aumenta la modulazione, si aumenta il segnale, aumenta, e in più esce più bene di modulazione. Comunque buonasera. Ho capito, dai. Ciao Fra, ben ascoltato, stai arrivando forte, ne sento pochi da Sosso che arrivano così forte, ti ascolto molto bene. Vabbè, lo lasciamo scaldare, intanto poi rientrerà mio figlio più tardi. Avanti, riprendi Gianni. Cappa, dai, e adesso vado e cambio parecchio, così vi faccio girare un po' tutti. Adesso sono una moto che non uso il Cobra bisogna attaccarlo e farlo andare, perché sono da tanto che non lo uso, e poi faccio girare gli altri. Tutte le sere faccio questo lavoro qua, a te ti viene un po' male se già fai girare tutti. Ma io più che altro ho il problema di far girare anche le macchine, perché tenerle ferme è un guaio, solo che a quelle quando sta saturando bisogna mettere benzina ed è un problema. Oh Sergio, stai leggermente saturato. Benzina le succhiano forte, quanto sono? 5.000 le cilindrate? Poi la più piccola è 5.000, altrimenti sono 6.000, 5.7. Cavolo, quanti cavalli c'hanno quelle macchine lì? Ma partono dai 250 cavalli fino a 200, 180. Minchia, anche di pollo quindi si paga un bel. No, per fortuna no, perché sono autocarro e autostoriche, quindi pago come un motorino. Oh Sergio, sei fortunato, io pago quasi 300 euro di bollo. Scusami un attimo già, io ne terrei chissà quante con 300 euro. Dimmi Robè. Stai leggermente strappando, non so se hai toccato per caso, regolando la potenza, hai toccato il Mickey Gain. A quanto ce l'hai di quell'apparato? Adesso sono a 5. Il Mickey Gain a 5? Sì. No, cacchio, abbassa un bel, mettilo a 2. Ecco, adesso è più basso, a 2.5. No, adesso stai toccando la potenza tu. Aspetta un attimo, ecco a 2, vedi un po'. Allora aspetta un attimo, la potenza c'ha quel doppio tasto, c'ha dove c'è scritto mic e car. Mic è quello centrale, quello nero, quello cromato ti regola la potenza, invece tu tieniti quello del mic, lo tieni a 2, con la potenza lo sollevi un pochettino. Sì, infatti ho fatto così, non so come sto uscendo adesso. Prova a parlare un attimo, non ho visto il segnale. L'ho portato a 2 e sì, era più alto, magari mi distorceva un po'. Adesso cosa c'hai il coso? Il Mickey Gain a quanto è? A 2? Sì, a 2. Prova a sollevarlo un po' di più. Adesso magari lo porto così a 2.5, vediamo un po'. Ma ti stai avvicinando troppo al microfono, che cambi c'è? Da 2 a 2.5 ho cambiato totalmente la modulazione. No, lo so, il microfono è sempre alla stessa distanza. Forse come lo sposto questo è più sensibile il Mickey Gain. Ok, quello del microfono a quanto ce l'hai? Questo è a... adesso l'ho visto, a 5. Perché abbiamo fatto la regolazione 7 e 7 il coso, aiutami, il microfono e 2 è quello del coso, dell'apparato. Provare a abbassare appena appena il microfono del... cioè il guadagno del microfono. Adesso l'ho abbassato, l'ho messo a 4, vediamo un po'. Sì, adesso va un po' meglio, perché stavi strappando e poi distorci. Ok, vediamo un pochettino Claudio da Muros, avanti a te. Bianco per me 2 minuti, ne arrivo subito, continuate, vai Gianni. È successo già. Avanti Claudio, ti ascolto bene di radio, adesso sta arrivando nitido proprio. Sì, sto usando questo 430 che di solito usa Riccardo con questo MP2. E comunque abbiamo migliorato tantissimo anche per questioni anche di antenna, perché prima ti sentivo proprio a malapena, molte volte il QRM ti copriva. E capisco che la zona è la tua e la mia rispetto alla tua è molto difficoltosa, però tutto sommato adesso stai arrivando bene, quindi evidentemente stai uscendo molto forte. Prendo io? Posso? Hai. Non è successo nulla Sergio, solo che stavo cambiando apparecchio quando mi ha chiamato e ne scava uno con l'altro, quindi io ho dovuto spegnere uno e attaccare l'altro. E non ci avevo modo di dirvelo perché non c'avevo il microfono in mano, capito? Va bene, dai, tutto bene ciò che finisce bene. Sì, me lo sono immaginato perché l'avevi detto che cambiavi apparato. Comunque adesso ti ascolto forte. Oh Claudio, mi ricordo quando ero ragazzo il Summer Camp erano degli apparecchi eccezionali, bellissimi come erano fatti, erano dei belli apparecchi che mi sono rimasti proprio nel cuore, dei miei ricordi, perché ne ho usato diversi Summer Camp. L'ultimo mi ricordo era il TS340DX, bell'apparato. Sì, ce ne sono diversi quelli di Summer Camp, sono anche valvolari, quelli da per casa sono valvolari, sono molto belli. Cara. Ehi Sergio, dai, mi ricordi. C'era anche il 50B della Sommer Camp, il ricevitore. Quello lì mi sarebbe piaciuto averlo, vedi? Ok, no, belli apparati, bellissimi, sono solo da vedere e proprio piacciono anche alla vista, non solo all'uso. Sì, Natalino diceva buono anche il ricevitore, sì, anche quelli erano fenomenali. Mi sa che anche sono rari da trovare, avanti Natalino. Non so se si trovano. Sono belli, ce l'aveva un amico che è morto, quello lì, e poi l'hanno dato la famiglia a altra gente. Quello era il 50B, l'ho conosciuto, della Summer Camp. Addirittura io avevo, mi ricordo, un palmare che era dotato di 6 canali con tanto di smitter, era verniciato di azzurro, bello, con una verniciatura di quelle martellate, proprio bellissimo, con cromature nella parte riguardante il microfono e dell'altoparlante. Va bene, avanti Gianni. Sì, ho provato un po' a modificarlo, a mettergli un po' di eco, come sta andando? Ah, forte, come ribombante, come il solito eco, però forse non è neanche bisogno, arrivi già forte di radio, poi dopo diventi anche un po' incomprensibile. Lo lascio così, dai. Questo è un microfono che ho modificato io, dai. Vabbè, io non faccio neanche il testo perché siamo vicini, quindi mi arrivi forte a prescindere. Però così ti sento chiaro, non so gli altri poi. Avanti Claudio. Qualcuno, addirittura mi arriva anche qualche splatter, è strano, c'è anche una condizione di propagazione che non mi sembra neanche granché, però va bene, facciamo girare, avanti Natalino. E c'è stato un doppio bip, chi è? Avanti. Attenzione, binari 10, Javier. Ciao Massimiliano, buonasera. Ma cosa Massimiliano, dopo che è ben Giulio. Che orecchio che ha Natalino? Ehi, tra voci, abbai di cane, e cosa ne vuoi comprendere? C'è anche il volume basso. Mi è sembrato Massimiliano, ma forse è Luca. Natalino è cocomane, buonasera a tutti, cambio, mi sentite, sì? Sono rientrato io comunque. Cava, Lugariello. Ok, dai, saluto a tutti, dai, ciao anche a Roberto, ciao anche a Sergio se mi ascolta, avanti Sergio. Sì, ti ascolto, sei arrivato con questa radio prepotente, quindi ti ascolto bene, sempre forte, ciao, ben ascoltato, avanti. Ciao anche a Claudio Muro se mi ascolti, avanti. Confermo, dai, ci sono i tedeschi in FM a rompere le scatole. ciao anche a Marco, Gianni riprende, avanti. Sì, basta spostarci il canale e si risolve il problema. Qual è il problema? Ci spostiamo di canale e fatto io. Cerchiamo un canale pulito, dai. E aspetta che devo andare a cercarlo dove è più pulito. No, era un attimo sporadica la propagazione, adesso si è abbassata. Poco fa sì, erano anche alti, anche 8 arrivava. Ciao Robè. Ciao Marcoli, ben sentito anche a te. Ehi, vi sto ascoltando, che sto nastrando uno schifosissimo spiralato di un insec che si è tutto fessurato, aperto, e per poco non si rompono i cavetti dentro. Meno male me ne sono accorto. Andiamo sul 20? Andiamo sul 20. Attenzione, canale 10, 27.075, Alfa 21, a questa parte mi sta chiamando in frequenza. Non ci stanno problemi, dai, fratello, la cosa è bella, Ma che ti hanno fatto tutti? Luca! Sì, ti copio, che canale sono andati? Vabbè, fischia! Riccardo, è causa propagazione, si sono spostati sul 20, tutti. Ok, 27.205. Affermativo. Ok, grazie. Barracuda, tu sei? Certo, me. Eia, sì, siccome non li ha seguiti Sergio, credo che sia tutto dal QTH Riccardino, gli ho detto che sono là loro. E quindi Antonè, come butta? Sergio, canale 20. Già fatto. Scusate. Eia, tutto bene, niente a posto. Siamo ritornati nella normalità. Solo a fare commissioni, ogni adipende una, oggi alle poste. Questa è distrazioni poche, la verità, no, distrazioni poche. E altro che buonsenso, Antonè. Lì in via Roma, girando da via Bellieni, tutti ammassati al bar, al tavolino, a 30 centimetri uno dall'altro, non è cambiato niente. Mascherine abbassate, tutti che si abbracciavano, che si baciavano, i giovani. E infatti gli hanno fatto due multe in una nottata a quel bar, due multe, proprio per inosservanza totale, colpa dei clienti, però, cioè il bar non è che puoi arrocciare i clienti, no, sgridarli, se no se ne vanno. Lo stesso Alghero, tutta gente ammassata una sull'altra, mascherine lungo, tolte, perciò oppure ci sia un picco di nuovo, speriamo di no. Io un altro mese o due mesi a casa di nuovo per colpa di altri non ci voglio stare. Forse B132, perché se è BV è a valvole. Sì, tu stai dicendo quel finale, quello a croce, con i contatti a croce, MRF, sì. E infatti a seconda di quanto costa, poi quanto ne monta, uno, due, fai prima a comprare il linearetto. Caspita, sì. Ecco qua, ci ho messo l'autoagglomerante, adesso un giretto di un altro adesivo. E così salviamo la situazione, per carità. Tanto si romperà in altri punti, lo so già. Antone, io dovrei staccare. E vado ad ascoltare, cioè lo lascio sul 20 comunque in ascolto. E vado a fare roba tipo caffeina e company, dai. Allora, qua stavo notando 7.5, non mi ricordo se era uguale alle altre volte o se le altre volte eri 8. Ti ricorda qualcosa? Qui 7.5 comunque adesso. No, certe volte sai, siccome c'è stato vento, mi chiedo, non è che qualche radiale mio ha preso il volo, chi lo sa? Magari c'è l'antenna coricata, boh. Ehi. Comunque ripeto, 7.5 il tuo, 7.5, quindi indiscreto comunque. Ciao Antonè, buona carica, buon tutto, ci sentiamo. Sessione canale Messi, canale Messi, canale di Morsi, quando 110. Sensore 10. Attenzione 10, c'è qualcuno? Vabbè. Ciao Luca, non c'è nessuno? No, eravamo al 20, continuo, là. Certo, passo al 10, ma con un po' in ascolto, mi sento qualcuno. Sto facendo orario per fare la puntura a mano. Cioè, per assoluto orario, vi fai o c'hai degli scarti tolleranti? No, 9:30, là, così va bene, voglia. Quante volte al giorno la fa, una volta o due? No, una volta, la notte solo. Il giorno, la mattina prende la pastiglietta, e fa colazione, pranzo e cena. E poi quella della notte, vabbè, quella della notte copre tutta la notte, perché è lenta. Io ho capito, purtroppo sono cose delicate. Meglio mai non avrebbe, però purtroppo chi ce l'ha bisogna per forza farlo. Beh, meno male che esiste l'insulina, se no sono tanta gente morta. Ma adesso, almeno adesso c'ho il vantaggio, sono piccoline, sono piccoli aghetti che entrano, non è così? Sì, sottocutte. Ma conosco gente che se la faceva da sola. Non ce la fa, Robert, aveva paura, boh, adesso. All'inizio ero terrorizzato, perché io gli aghi, ma sono, diciamo, quest'ago qua, non è come l'ago che c'era una volta, no? Tipo gli aghi, le cinghie che usano i tussici, là, diciamo. Forse sono più lunghi, tipo quella delle parina, no? Quella per la coagulazione del sangue. Quella è un bel grande lago, mamma mia, infatti quando gliela facevo la pancia, purtroppo glielo devo fare io, non c'era nessuno, ero costretto. E mi veniva, mamma mia, la pelle d'occa. Non me lo dire a me, solo a vederli gli aghi, mamma mia. Una cosa mi fa troppo coso, senso. C'era mia nonna, mi ricordo sempre di mia nonna è stata tutta la vita diabetica, ecco, li scaldavano in quei coso contenitori in acciaiolino, se ci mettevano la siringa in vetro con lo stesso ago, lo dovevi scaldare nell'arco, tutto quanto, mamma mia, poverina, tutti i giorni, ma ogni ago. Ecco. Purtroppo così, roba, avanti, becco. Ok, grazie Luca, ciao Roberto, mi ha detto ciao Luca, fa 21 a questa parte. Ciao Riccardino, e beh, l'hai inventato le nuovo, l'hai messo quello di Fabrizio? No, perché Babbo ha provato e praticamente l'ha regolato giù, cioè adesso sta andando bene lo ZG, però per sicurezza dopo faccio anche la prova con quello. Comunque Robè, aspetta che ti devo mandare una foto, okay, di quello che ho comprato. Eia, ok. Chi c'è qua oltre a Luca? Avanti, qualcuno che vuole entrare? Boh, avanti, di nuovo a te Luca. No, non c'è nessuno. Sarò un continuo, 20, perché dopo fa c'era i tedeschi che disturbavano un po', e allora sono spostati al 20. E dato che passavo qua, non c'era più nessuno, capito Roba? Poi chiamate e ti ho risposto io, sono rimasto con il stand-by. Andavex, Riccardi, allora, cos'è, che problema hai? No, nessun problema, è che ho fatto un altro affare. Tu fai sempre affari. Ma io sono del palestra, sì, le radio sono belle, ma quando ne è tante, è un casino. Ma io ne ho 4 baracchini, già, per me sono tanti. Di cui uno è sempre fermo, il Mobicom, non lo uso, quello modificato ogni tanto lo accendo, e l'altro è giù dalla 25. Ho capito, no, però è bello, mi piace molto, adesso gli ho mandato a Roberto, te lo mando anche a te. A me piacciono molto i veicolari, non lo so, io come apparecchio, mi piace anche il 140, 440, però sono più, cioè invece di prendere magari uno di quelli grandi, ecco, adesso mi viene il nome, vabbè, preferisco più un veicolare. Un balancello, va. Dimmi la tua opinione. E beh, pompo. Ehi, ciao, sono tu. Beh, ascolta. C'era lungo. Incappettato, avanti Marco. Aspetta un attimino, scusa. Roberto. Sì, no, sto guardando. Ciao Antonello, ho sentito il respiro di coso, di Marco, inconfondibile. Riccardo, ma cos'è questo? Lo hai Sì. Ma non è 9600? No, un altro è, ancora un altro. Quello è già stato spedito, questo è l'FRG 7000. Ma perché vi state prendendo anche questo? A proprio gli piace, non lo puoi fermare. Bello già, è bello, ma dovevate prendere quell'occasione che ti ho detto di quell'ICOM. Se telefonate, quello è un affare mondiale. Aspetta, dov'era quell'ICOM che mi stai dicendo? Su quel sito che ti ho fatto, ma ce ne sono tanti, però a quel prezzo non è true, infatti ci ha messo in sospeso, non sono riuscito a mandartelo perché non riesco a scaricarlo. E tu con cosa sei, Antonio? Ciao Marco. Con la troppo sette sopravvivo, sai. L'altro c'era in cameretta di cosa? Di Alessia. Potrebbe vedere 500 euro, figurati tu. Nuovo, nuovo. C'è tutto. Non manca un tubo, un tubo. C'è gli attacchi per le agganciate in macchina, i cavetti, c'è tutto. C'è i cavetti, eccetera, eccetera. Non ho capito, Antonio, di cosa stai parlando, perché ti ho sentito disturbato. Cosa hai detto? Parlo dopo 5-7, ho detto. Che c'ho tutto io, cavetti per la macchina, tutto. Hai capito? Sì, sì, no, ma stavamo parlando di ricevitori, stanno prendendo un ricevitore, Riccardo dal padre. Sì, vabbè, al limite, se mi serve dopo 5-7 se lo prende, qual è il problema? Il nuovo nuovo è il mio, dentro la scatola, figurati tu, sono troppo trini, lì dove sei tu, e te lo faccio vedere, non c'è un graffio, tutto è scatolato, sembra, si è girato dalla fabbrica, vale. E anche il prezzo c'è addirittura. Ma com'è che lo stai vendendo? Perché voglio comprare quel motorino che c'è presente, ho la macchina del 50, il discorso è quello, per fare la spesa, perché io non ce la faccio più a salire da casa, cioè partire da casa, scendere giù, fare la spesa, prendere 3-4 cose di acqua, hai capito? Viene ben male, non ve la butto più, e quindi a un certo punto voglio... non me la frega niente dall'apparecchio, e che altro, mi prendo un motorino, quello che è, senza partenza, senza cosa, quello che è. Sei un bel distorto però, Antonio, ti non riesco a capire quello che dici, ma c'è il contributo per il monopattino adesso, non è così? Cosa mi uso il monopattino, ma sei matto, non esiste, no, va. Non uso il monopattino io. No, ma c'è quel monopattino, quello col sedile, che c'ha tipo quello che c'ho io, non è proprio un monopattino, è una motoretta con tre ruote, c'ha due ruote piccoline dietro, però puoi appoggiare i piedi e il sedile e lo guidi come una moto. No, c'è quello 50, c'è quel motorino, già lo sai, c'ha il cestino davanti, il coso sotto la sedile, cosa del genere, e quindi voglio prendere quello, cioè se no la macchinetta 50, capito? Adesso vediamo un pochettino. Quello che mi capita prendo al volo, perché io ormai ho 57 anni, qualcosa in più, non sono l'altro. Quindi a un certo punto, cioè, a seguire la spesa, l'acqua, che sono sempre più da un litro e mezzo, eccetera, eccetera, ormai non ce la faccio più, capito? Bianco per me. Ok, vediamo chi c'è rimasto qua. Luca, ci sei? Sì, sono qua. E poi arriva un bel forte in radio, doveva lasciare un po', arriva un po' tutto impastato. Scusa, due del semi sto usando. Il microfono è perfetto palmare. Ti sapete se la giornata già lo sai. Ma tutto questo rumore di fondo che si sentono, Antonio. E l'apparecchio che è modificato così, non ci posso fare nulla. Ma stai usando il microfono da palmo? Ehi, te sto dicendo. Se ti schiacciate tutto il respiro, tipo quando c'hai le patatine, tipo carta di patatine che stai schiacciando, si sente così. Sente tutto. Ma allucinante, adesso va meglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. Ma si sente sempre così, tipo quando schiacci qualche carta di patatine, è un po' meglio adesso, o sei troppo vicino, non lo so, Sono distante, 20 centimetri. Ma non si può abbassare il livello microfono? No, scusa, aspetta che attacco l'uomo gatto, vai, a me non mi senti per niente e siamo a posto. Tanto quello c'è mezzo watt, quindi... No, si sente questo rumore tipo quando tagli della carta, rumore così come qua. Aspetta, attacco l'uomo gatto. Credo che esce 50 milliwatt per esattezza. ma con il lineare pilota, non solo l'altro. Ehi, Simo, cazzo, cosa vuoi? Cazzo, ma non è possibile, sto scendo di testa qua. Chi è entrato? Avanti, c'era la chiamata. No, scusate, era l'ascolto, ho fatto una litata. Lampati tutto, Antonè. Oh, mamma mia, guarda. Io ho guardato il piede, guarda. Sto uscendo di testa con questa qui, guarda. Tutti i giorni, mattina e sera. Antonè, Antonè, Antonè, cazzo. Mi sembra che vivo l'incubo di mia madre, cazzo. Uguale. Scusate, breve. Ma se non sto bene, a chi chiede, chi deve chiedere, Antonè? Sì, ma è al telefono con l'amica sua, è bello quello. Ma dimmi i coglionate. Ui ui, va bene, dai, vi saluto, che tanto mi sto accendendo la TV adesso. Vediamo che porcata c'è stasera. Riprendilo bene, dai, vi saluto. Aspetta, c'è stato un break, avanti il break. Vabbè, forse era qualcuno che non vuole fare. Chi c'è? Luca, riprendi. Chi tanto mi? 4 minuti, 3 minuti manca, vai, vado a fare. Vado a fare l'insulina a mamma, arrivo subito, riprendete voi. Io rimango qua in ascolto, sto facendo delle cose e poi quando volete entrare avviso. Clicchi su canale 10. Cioè sono tutti scomparsi, sono mancati 10 minuti, sono tutti scomparsi. Ciao Rega. Ciao Tonino. Io acceso adesso. C'è nessuno. Ciao a tutti, era pieno, c'era Luca, Roberto, non so che fine hanno fatto. Aspetta che glielo chiedo. Sono andati a mangiare. Ah, a mangiare senza dire niente, bene bene. Vabbè. Io sono qui. Comunque. E io. Bene, che ascolti in radio. Sì, va bene la radio, 5. Va bene, mi piace. È amplificata. Sì, amplificata, amplificata. Sì, vabbè. Bene, Meda. Vabbè. Cioè, non ti riesco a mangiare, ora sono le 22 quasi, vabbè, io fra un po' vado, tanto mangio due cose e torno, perché voglio stare su canale 10 in ascolto, a vedere se c'è qualcuno, se entra, voglio fare un po' di questo, ho visto che c'è un po' di propagazione e poi è calata. Questa sera ce n'era molta e anche alta era. Dai, mangiucchi allora, io rimango in ascolto, poi quando è finito rientri e ci sono. Ehi, va bene, anche ora se in ascolto tu lì, ci sentiamo dopo, sono qui comunque. Va bene, ok, a dopo, ciao ciao. Oh, ciao, sono Fabrizio. Riccardino. Cosa Fabri? Ciao, devo chiudere che sto facendo un lavoretto sempre su quella radio, che sono io. E beh, come sta andando la radio? Benissimo, non mi sta dando problemi. Dai, quindi probabile era l'alimentatore. Probabilmente, adesso no, sta andando benissimo. Ho praticamente il carasse e il mic gain a 2,5. Comunque mi ascolti bene? Sì, perfettamente. La potenza l'hai provata in banda laterale per vedere se sale con quell'alimentatore? No, non l'ho provata, è con la verità. Senta che riprovo, faccio un'altra prova. Prova anche qui, metti come ti ho detto io e prova a vedere se da tutti i watt, per curiosità. Dovevo mettere il carro al massimo? Il carro al massimo. Metti il carro al massimo e la mandi in banda laterale. Fabri, 60 watt. Quindi sto andando 60 watt in banda laterale, più o meno, devi da ritoccare. Vabbè, comunque sta andando bene adesso. Adesso non sto più usando le memorie perché non voglio rovinare rovinarla già com'era, e quindi userò solo il frequenzimetro giro. E in AM quanto ti dà? come sempre 20 watt, quando faccio come dire acuti sale a 30. Vabbè, dai, metti la metà, la sala così poi la controlleremo, però va bene. Dai, comunque ce l'ho qua col pezzo di quella radio, quindi lo cambieremo. Sì, va bene, grazie Fabri, sono qui in ascolto comunque, se hai qualcosa da dirmi. Va bene, dai, che sto facendo una soldatura su un 4330. Ehi, ma quello che problema sta dando adesso? Adesso sono tutte le frequenze, ma USB non va, rimane la lucetta in trasmissione, in FM eroga, nelle altre parti non sta erogando potenza e diciamo si riceve ma in maniera tutta strana. Ci deve essere qualche cosa su quella scheda, se riesco a trovarla, ci sto lavorando, dai, però sarà difficile. Sì, se te lo posso chiedere, come si chiama la scheda? Così posso anche fare un giro intanto che sono qui in ascolto. Sì, la scheda è la Unicontrol. Unicontrol? Sicuramente è quello, sono sicuro, sto facendo delle verifiche, però sicuramente è quello. E quindi niente, siamo a parte, l'ho messo a posto, ma adesso c'è da continuare a lavorarci, da. Vediamo adesso, spero che riesci a risolverla, perché sennò devi fare come hai detto a metterla, come dire, la vendi ai ricambi. Vediamo, se no aspetto la prima scheda che trovo, vedo un attimino, non lo so, adesso vediamo, dai, non è un grosso problema, comunque adesso vediamo, dai, ci sentiamo, io sono qua in ascolto perché poi devo uscire, comunque, se voglio, adesso provo, sto cambiando una cosuccia, ci sentiamo dopo, l'importante è che vada bene quella, poi te l'ho fatto vedere, il pezzo ce l'ho qua, quella schedina per sostituirla, quando capita la sostituiamo. Oh, stavo guardando quel pezzo che serve a me, cioè su eBay costa 14,90. Sì, costano così quei pezzi, alle volte l'ho visto anche, alle volte lo trovi a 14, magari ti costa 30 euro spedito, più la spedizione, alle volte lo trovi a 20, 25, più potente così, i prezzi sono che trovi un frequentino a 30 euro, sempre così, i pezzi sì, non trovi tutto, però alle volte si trovano i pezzi spesso, perché ce ne sono molte, comunque io di questa radio ne ho molti pezzi di ricambio, non è un problema. Comunque quello te l'ho messo da parte, ricordi, quando già ce l'ho qua, così poi lo cambiamo e poi magari una volta che lo smontiamo lo controlliamo, poi magari fai vedere come è costruito, sì, perché poi ovviamente dopo che lo smontiamo magari lo mettiamo anche a posto, perché è solo un pallino, ovviamente si fa anche ritornare, però comunque glielo mettiamo a questo che va meglio. Ehi, va bene Fabri, comunque stavo guardando io, visto che non voglio che faccia quello scatto nelle memorie, nelle memorie praticamente sulla memoria 2 c'ho il canale 30 e infatti prima per andare al canale 30 la metto su 2 e poi accendo le memorie perché non voglio che faccia quello scatto, ma va bene lo stesso comunque. L'importante è che non ti faccia scatti, forse non è un problema, l'importante è che cioè, quegli scatti 3-3-3 è meglio che non li faccia, ma bene non li fa. Lo so, no, infatti lo so, come ho detto non ne sto usando quasi mai memorie, le sto usando in condizioni precarie quando mi servono in fretta e devo fare prove, ma succede poche volte. Allora fai così, l'importante è che vada bene, aspetta che faccio questa soldatura. Fai Fabri, intanto sono qui, non c'è problema. C'è qualcuno su 10? Ciao Robert, sì, ci sono io, c'è anche Fabrizio e Tonino. Ciao a tutti, salutate allora. Ok, c'è l'altro, avete voi o solo io? No, solo tu, io sto ancora aspettando, mi hanno chiamato un attimo perché praticamente hanno riempito la piscina e stavano attivando il motore e così li ho aiutati ad attivarlo. Ciao Roberto. Ciao Tony, ben sentito. Ne ho visto proprio oggi una nei tardi, una piscina grande, ma enorme, che la stanno vendendo qua a Sassari, di quelle non da interrare, quelle che rimangono fuori. Anche l'altra sarebbe da rimanere fuori, poi la interri, quella era da fuori, ci hanno dato anche. Era da fuori e poi l'abbiamo interrata. È più sicura, dai, per come struttura rimane più stabile. Infatti no, secondo me è meglio così. Guarda, mi sono un po' stanco oggi. Anche io sono un po' faticato, dai, oggi è stata più pesante del solito. Ma io da una parte all'altra. Puoi tornare posteggio, in Italia è un casino poi, per carità. ma adesso che hanno riaperto mi sembra che ci sia più gente di quanto era aperto prima. Boh, ho l'impressione mia che non siamo abituati, più confusione c'è. Hai ragione, c'è un bel di traffico, giusto? Ma la voce la beso che ogni casino di macchine. No, infatti qui, ma anche nei negozi, cazzo, se vai da Bricomo mi sono spaventato, sono andato quando è domenica scorsa. C'era una fila per la cassa, ma hai visto quanto è lungo Bricomo, sarà boh, 60 metri di lunghezza, 50 metri, tutta la lunghezza di Bricomo, c'era tutta questa gente infilata, ma che strano, cioè, tutti facendo la fila, sino al reparto dove ci sono le vernici in fondo a tutti, le porte, sino alla cassa, una cinquantina di metri di fila dentro, poi ci andava trattato fuori per entrare. Sì, ma ci credi che c'è più fila a pagare che a entrare? Infatti quello che sto dicendo era allucinante, insomma, meno male che non ho comprato niente, nel senso non avevo niente, sono andato solo a vedere se c'erano delle cose. Se l'avessi preso guai, ci avrei buttato tutto, sarei andato lo stesso. Ma io ci vado spesso, non dico ogni giorno, ma 3-4 volte a settimana ci vado, perché io faccio il fai da te, in questi due mesi che devo stare per causa forza maggiore a casa, sono pagato giustamente, sono in fine forzate. Quindi niente, mi faccio dei lavoretti che devo fare, capito? Quindi fatti che non ci posso più, e vado spesso perché mi serve materiale. Sì, ormai c'è tutto, dai. Io sono andato poi martedì perché c'era l'operaio, stava facendo dei lavoretti e mi ha chiesto se andavo a prendergli il coso. La malta pronta, sono andato di lì, infatti l'ho fatto velocissimo, non c'era nessuno, ho preso, ho caricato e ho pagato. Guarda, io mi sono costruito, sembra un armadio in miniatura, alto 1,20 m per 1 m, e ci ho messo i ripiani dentro, peso 50 kg, tutto legno da pre. Anche io ho fatto una cosa del genere, dai. Poi ho messo i piedini, quelli, ho preso già quei ripiani, quelli abbastanza grossi, non so se siano da 3 o da 2, più o meno 3, dai. Lunghi, saranno un paio di metri, dai, più o meno, ogni ripiano, e gli ho messo i piedini, quelli quadrati neri, avvitati sotto, e mi ho fatto tutta il tipo libreria. Dai. E io ho messo il mobile che c'è la stazione, gli ho messo le ruote perché è un bel più pesante. Sì, quello che ho fatto per le armadi, stavo dicendo, lui che ho messo i piedi bianchi invece, abitati all'interno, e dunque avete lamellare da 28. Sì, è abbastanza grosso, dai. No, io ho preso quello nobilitato, cioè tucciolare nobilitato con gli spigoli smussati, no, già bellino. E poi anche io la base dove poggio tutto con la grande, che è larga, sarà penso 80 cm per 3 metri, 2 metri 50 di lunghezza, dai. Di lì c'è una struttura in ferro ed era di un negozio, di una cartoleria di mio cognato. C'erano quelle vetrine che si usavano una volta quando mettevi la merce nelle cartolerie con tutte le penne e cose del genere, ne ho smantellato tutto, ho tenuto solo lo scatolato della struttura, poi in officina gli ho messo le ruote, quelle grosse enormi, peserà, ci saranno non meno di 200 kg di roba sopra questa roba, forse di più, considerando i pesi forse di più, perché ci sono un sacco di apparati, tiro le ruote, lo sposto e dietro faccio tutti i cavi eccetera eccetera, così almeno se devo fare manutenzione è tutto mobile. Mia figlia mi ha detto, ma non facevi prima a comprartelo? No, perché quando lo compri non è mai legno come lo vuoi tu, uno. Le misure che voglio io non lo trovi, quindi trovi soltanto, paghi un bel di dinà e non sempre. Questo ci puoi sederti sopra e sei tranquilla, è anche un bel forte. Poi ho messo quelle squadrette in acciaio per i piani. Ne ho messo 4 per ogni pannello, 2 da una parte e 2 dall'altra, ma non sai quanto mantiene, vabbè, un bel. Sicuramente già è fatta, poi le cose fatte sono quelle che ti danno più soddisfazione, te le fai a misura come vuoi tu, ti metti le cose che vuoi tu, nel senso se c'è il piedino te lo sposti, te lo fai, eccetera, eccetera. Se aveva fatto la falegname guai. Adesso la Bricomo trovi tutto, ti adatti a fare tutto, se uno ha un po' di manualità riesce a fare tutto. Ok, facciamo rientrare a Riccardino, avanti Riccardo. Ok, vabbè, sono qui, comunque come ho detto ti saluto e saluto anche a Tonino e c'è Fabrizio in ascolto. E dove Fabrizio? Avanti Fabrizio. No, io stavo ascoltando, io sto terminando un lavoretto. Ciao Fabri, ben sentito, dai. Ricambio, devo ancora mangiarvi. Fabri, una domanda, se puoi rispondere. Dimmi. Ma con cosa stai uscendo tu? Adesso, col capo, perché? Cosa c'è? Aspetta che spengo qua. Perché? Mi sembri leggermente spostato, l'hai guardato, si è allineato con l'apparecchio.